siamo il paese in Europa, nell'Unione Europea, con il maggior numero di POS e siamo il paese allo stesso tempo con il minor numero di operazioni pro capite e il minor volume come carte di credito. Il POS, per chi non lo conoscesse, è la macchinetta che ha il commerciante, che c'è al supermercato, dove inseriamo carta e bancomat per poter pagare, ecco. Detto questo, che già dà il significato di come è importante appunto cercare di fare questi progetti come questo con Unicredit, facile e sicuro, ci sono due problemi da affrontare nel momento in cui si parla di commercianti. Il primo, che per me è quello che dovrebbe essere affrontato subito dal sistema bancario nel suo complesso, è che molti commercianti ancora rifiutano, come ha detto giustamente lei all'inizio, il pagamento con carta di credito o anche con carta di debito, addirittura anche con il bancomat. Allora, sulla carta di credito molto spesso la motivazione è il costo del costo dell'operazione per il commerciante stesso. Nel caso di carte di debito spesso troviamo cose veramente assurde, tipo ma per 20 euro perché devo usare la carta. E questa è una cosa, sicuramente io abito a Roma e devo dire che mi capita abbastanza spesso, poi chiaramente io mi so difendere, ma non so quanti sanno difendersi su questo. Come si difende, ecco. Picciolini, che cosa fa? Si arrabbia oppure minaccia di andarsene senza pagare? Che cosa succede? Faccio presente che le convenzioni con il consorzio bancomat o con la singola banca che sono altri circuiti non prevedono queste limitazioni, e che se non lo fanno lo chiamo la Guardia di Finanza. Molto semplice. Benissimo, la parola Guardia di Finanza li rimette in riga.